Luca. Luca. Giovanni. Luca, sì sì. Luca. I buchi. Dormi, dolce. Uffa! Cosa da bagno? Per vecchio. Ma ci accorci se ti la deva. Uffa, bramironi. Ma ti accorci. Accuditi che accorcio. Ma ne mangia. Aspetta 2 minuti. Ciao, Mari. Ciao, buonasera. La sia era già perso dei colpi. Dove senti tu? Mi sento da Giovanni. Ah? Ho detto, sì che ti sento. E cos'è che mi rende? Scusa, stavo mettendo il pigiama. Bella roba, me. Pigliati anche cosa, però. Cosa? Prenditi qualche pappasiglia. E fa cosa? Siamo a di capo. Ma io ti sto comprendendo un pigiama, non sto con Maticapo. Anzi, comprendi a Maticapo. E a Maticapo ti pare corra. Anzi, comprendi così. Boh, sta rovescia con comprendere stasera. Preparendici, non vado male. No, sono la città neanche tu mi invitia. Cazzo. Noi pure siamo visitati. No, noi siamo a pranzo dalla mamma di Marina e a cena rimaniamo qua. No, non andiamo da nessuna parte. Mangiamo tranquilli, sereni, quando finiamo di mangiare. Boh, non lo so. A uscire non usciamo, forse a Capodanno usciamo. Vabbè. A Natale con i tuoi, a Capodanno con chi vuoi. E noi saremmo in famiglia, ma stessi, capito? Noi siamo i nonni per tutta la famiglia, così che la casa rimane piena, a zeppa. Sino per lungo li posso mangiare in terra. Sennò mi ando da Graziano io. Vedi. La Graziano, fatti il pittacca, dalla manco, mangi vegli, ti capi, la chiedo, è già preparato da che ci mangiano, capito? Se mi invita vado volentieri, non mi invita. Prova a dirgli a chi vita, a chi la secca della curva a fare compagnia. Ciao Maria, ascolta, faccio ciao. Io, a mangiare a crocco. Frequenza, tu hai la possibilità di accendere la 23 un attimino, facciamo la prova. Aspetta, stanno sopravvolato, Graziano è un altro. Aspetta, Graziano, è cosa prima di realizzare. Cosa hai detto lui? Ho detto, se ti puoi spostare al 23 a fare una prova al baracchino, che mi hanno detto che ce l'ho fuori frequenza. Acceso, basta favorizzare. Dimmi tutto. Dimmi tutto. Dimmi. Non ti sento. Luca, a funziona. Però beh. Grazie. Dimmi. Ma mi inviti? Mi, qua. Ciao. Compra e vendo. Ha pagato CB euro 60 euro. Nuovo 2. Della Intec. Scrivi di qui si da Barri. Allora, ha ciambato subito percorso, hai inteso? Tu l'hai detto una cosa e tu l'hai detto un'altra. Gian Maria lo conosci, Intec M799 Plus. No! Non ne conosco i numeri io, no, grazie. In vendita, nuovo, microfono Intec, baracchino Intec. DM, Scane, SP, AF, ANL, ATT, saranno 40 canali, nuovo, compare Giardino, Sto per già dire. Non ti serviva un baracchino, mi te lo sta regalando a 60 euro. C'è anche l'attacco al fianco del microfono. Dopo roba. Ah, Gio Mari, grazie a quasi sempre alle attaccanti. Tu li dici una goccia, tu li dici un'altra, poi non più. Ehi, già li sa, già li sa trasformare le frasi, già. E la bella tirocino. Che a te? Oia, occhio di ricci. Gio Mari, un capo di grattino, è la chiesa. Buone, ed è di... Di vediamo, posizione di Osino. Aspetta un attimino. Ah, lo conosci Luca? No, già conosco, non ho capito. Se appigli sopra gli altri non sento gli altri, e cosa ha detto? Questo che sta vendendo questa radio, Intec, 60 euro, è di Osino. Si chiama... Aspetta. Piero Barone. No, negativo. C'è la foto, un signor anzianotto, no, ma non vai la radio, mi. Sì, ho tra gli antichi per frequenza, guarda, è da comprare, magari me la futtasse di qui si affianchi. Avanti, non già mi dedica le vuoi 30 euro. Quindi ha vinto per 30 euro e tu buoni un parallassi. Ma non devi fare un buco e ti fai a russo. E allora non si capisce se è 40 canali o che cosa. Buh. Cioè, deve essere digitale, dove escono i numeri. Cioè, è grande, dove escono i numeri. Buh, non so, vabbè. Dai, io mi assento, ci sentiamo dopo se ci siete. Riprendi tu, Gio Mari. Arrivo subito. Ma mangiare sanda. Oh no. Ah, grazie, lo sai, quando io mi lavo devo guardarmi allo specchio un paio d'ore. Ah, ti devo rifare il trucco. Cioè, con tapirulan 100 euro se ti interessa. Magnetico. Beh, vai che mi tronco un gusto con tapirulan. Ah, stamattina te l'ha detto Paoletta che l'abbiamo incontrata all'Eurospinci. Ehi, già me l'ha detto. C'è una scrivania, porta computer, 13 euro, ti interessa con le ruotelline, color noce. Ho capito. Vabbè, comunque ti ho chiesto se mi inviti, tu ci appisi per i culi. Gio Mari, ci sei? Gio Mari. Sta assaggiando, Gio Maria, non l'hai sentito. Dimmi. La roba da grazia non ve lo dico, quasi dalle ciri mancanti. Sai com'è. È andato bene da, prima di te, mio Lu. E allora ha acquistato un po' di intelligenza. Ah, mi sei quindi convinto che è figlio di buona mamma, là. Io se non ho giudizio io, Ebbene, nel senso buono, no? nel senso negativo. Figlio di buona mamma, no? Non figlio di puntini puntini. Fuibu me, capito? Figlio di buona mamma siete che fuibu. Ah, io grazie a dirgli, dove la risposta visto che ti ha detto Luca poco fa. Io che avevo una cucina, quattro fuochi, a gas, portabombola, c'è. Però presto non è ammesso. E dov'è? Posizione venditore, lui Auristano. Vai, fa vedere da tu, visto, gatta. Gatta. Già pensato di colpi la mano, lui. Mi fa una moto antica. Gio Mari si chiama Lodola Euro 10. Antica Chiravalla, nuova nuova, rossa. Ti interessa? Ah, a te vuoi interessare a me, no? E su che bovaro, un altro di rapida. No, perché stammi di là, grazie, che mi chiami interessa, dammi i due di là, venga a pigliarli. È antica, mi dai due di là, vengo, è meglio, mi la compareggio. Ci sono anche gli scarponi in pelle, 51,99, 8 stalle. Davvero? E chi sa cos'era? Una moto bicicletta, 300 euro. Bubu. Bisa dire, no, c'è abbiamo la tredicesima, e stavo in spesa, dirai, la tredicesima. Tutto speso. Male hai fatto, ai pendentini. Sì, che mi manca poco a gennaio, di essere rifà di nuovo. Ma, dai due stupendi a uno per la differenza, un me puro. Non penso che ti dico un parastro. Se eri immune, da poi l'altro mese si baga tutto, d'ora, a febbraio. E vado tutto bagato, bello bene. Non vado a pagare che cosa a gennaio. Fai forza, internet di sicuro devi pagare. Quello, beh, certo. No, se lo prendono direttamente dal conto corrente. Sai, ti sei pure fortunato, ma così ne ha pizza allora. Come se ce l'hai internet gratis? E allora, ma come l'avviso? Ed è meglio perché così non ti perdono i bollettini come facevano prima. O non arrivi via, o arrivi a del retaggio. Ho capito. Capito miei. Luca, c'è anche una casetta in legno, bella mi. Culo rotti e la puoi trasportare. Vieni a dire a Trabori coso e l'orto portale con grazia e ti cocchi dretto la luci. Ai cimano andava un Lucca Valo d'Arreno, quei 3000 metri quadri. Ebbene, Luca, cosa stai facendo? Stavane lo fa vedere con Marino, Gianmarino, non c'eri, ti stava chiamando. E chi? Marino. No, senza Marino. Se avrebbe chiamato avrei sentito. Stamattina verso mezzogiorno, là. La dice, ma non vi posso rimanere a farvi dare, sono comprato gente di Milugaggio, un parmigiano, un reggiano. Mi l'ha detto, io a Giovassati lo vado a Chirazzese, sono comprato al magazzino, e lei mi ha detto, da chi sono mi ha detto, si era Graziano e un altro, e già me l'ha detto, e da poi faccio il chiamato, ma non per avere nessuno. No, io l'ho giudito, mi devo grattugiare questo formaggio, quando finisco già ti chiamo, invece poi l'hanno chiamato a scendere a mangiare perché poi doveva accompagnare il nipote e il nipote a giocare a palla. Ho capito. Non c'ero nel magazzino, però l'apparecchio l'ho lasciato acceso, mi ha dimenticato acceso e sono fra la giostra, fammi una massiggiata, capito? No, io dal parmigiano, quello che compra a pizzi, la cugiura, la pongo una buccia e lo lascio in frigorifero. Quando ne ho un po' di pezzi, lo pulisco col coltello e lo grattugio. Mi necessita una vaschetta piena piena. Ma per la pasta è meglio pigliare sempre quasi un saggio, che è meglio. Che è più buono. Ma quello è parmigiano reggiano, mica si dà la qui, la cucciola. È la bella grossa. La taglia a strisce, no? C'ho il macina al formaggio, il bombegivi e lo macino. Esce come quello che compri, no? Grattugiato. Sicuro. Sei a Macchisio me. No, c'era signor Macchisio. E cosa è successo? Buonasera Gian Maria, buonasera anche a Graziano. Graziano mi ha già parlato tutto, mi ritorna ancora, ci devo sentire, l'ha cercato la cadina. E ancora non si vede, dunque è in debito, non è che ha parlato a tutti. Avanti Graziano. Ciao Macchisio, quelli già! quando viene Natale già te li do. Va bene, a Natale aspettiamo allora, insomma lì, l'interesse zero qui. Lascia bruffa. Come sta la macchina da macciccia, facci così. Luca ha fatto un interrogativo a Graziano, invece donna l'analisi la risposta aiuta, ha chiamato il discorso. Cosa vuoi pensare a chi? Di Graziano? Malo pagatore, hai fatto storia, non ho dato risposta subito, non si sa. Vero Graziano, come ti mai? Ma chi ti interessa un baracchino della Intec? Microfono nuovo, 60 euro, nel telefonino su compra e vendo, l'ho visto adesso, di usilo è. Di usilo, ho fatto pure un gancio da me. Cosa se ne fai che baracchino Intec? Non fa nessuno, e poi sarà pure vecchio, sarà nuovo omologato, tipo 1918. Però c'è la fotografia sul compro e vendo, è nuovo, anche il microfono è Intec, è nuovo, originale, c'è anche la staffa per attaccarla alla macchina, è nuovo, non va un graffio, nuovo. E poi mi sa che sia digitale, perché il vetrino è quadrato, bello grande. No, ma... non ne fai nulla, 70 euro, 70 euro con fare giù in internet, con garanzia, io me lo fai, né garanzia nulla, scatola chiusa, se funziona funziona, se no ti rompi. 60, no, è un uomo anziano questo lo sta vendendo, c'è la fotografia. Ce l'hai trovato su questo qui? Su, compra e vendo, Sassari, e... lo trovo, l'ho visto adesso. Sto provando a l'ho trovato. No, non lo so. Non sono aggiornato con la sia su questo campo. Siamo lì avanti. Abbiamo da vendere noi, diglielo lo Graziano, abbiamo da vendere noi. Ehi, vabbè, ma magari se era interessato, perlomeno. Da esternamente si vede tenuta bene, una. E nuova roba. Ehi, come ti devi stare da te, che era nuovo. E da voi, non c'è via. Ma chi? Giammarì, è come ti hai comprato la scatola chiusa, così, no, no, è. Non va bene, no, grazie. 70 euro. Oh, se ne vuole 30 per fargli un'offerta proprio speciale, per provare. Non più di 30 euro. Quello che ho detto io, non 70, 60, 60, il prezzo c'è. E mi sa che quel microfono che sia di quelli buoni, ho visto c'è un pulsante sopra, è una rotellina. Allora che è amplificato. No, ma è perfetto, è originale proprio quello, è nuovo. Figlia di lui, grazie, figlialo, non vuoi che ci manta e dopo viene a cacciaporti. No, io non me ne posso mica, ma per uno che ha le radio super scassinate come le tue, magari ti interessava, capito mi hai? E capito mi hai, si vede no che sono stato di radio, c'è solo che funziona e c'è solo che no. Ho capito, grazie. A te pure mi vuoi caricare, mi pare che mi sono detto a 12. Boh, teniamo un coso, un magazzino. A poco vale, sono con i calendi. Sono venti di pulizia. Ehi, allora dagli Antonello, se quelli che non funzionano, li tiene per i pezzi di ricambio. E chi sa cosa che ha posto Antonello? Anche per c'è cosa la rifacciata non la prendete. No, è di Usilo, non è di Antonello. Di dire, sa, ma se ti ero e si può pagare bene un macchì. No, ma se io ce l'ho già, riuscimo a sapere, se c'è fanno anni, se c'è fanno anni, se può pagare con lei. Capito? se trovano anni di usilo, in casa usilo, ma trovano in Sassari. Lo chiedo e mi dice che carica noi. C'è anche il nome qua, adesso te lo dico, affetto, usilo Sardegna, valutazioni, Piero Barone si chiama. È un signor anziano, e se mi dice, dalla faccia mi pare un ex autista. Sì, se ne è il baracchino che ho avuto, ma se ne vendendo, 60 euro. Ma non si lo pare, ringrazia. Oggi sono stato accumulato, una dozzina di 3 euro. Oh, già sembra una persona come si dice. Mi pare la faccia di un autista. E va se non travaglia più e se ne vende oggi no avanti che stava bussando e via passi Luca, via passi a quel parcheggio che sta aspettando la risposta. Oh, grazie a Luca. E Luca si è assentato, non è che ci stava assentando. Titani banditi a Orgosolo. No, si è assentato la risposta tua. Ehi, la gratità, azienda di cibo e bevande, genere, tutto va. Ecco, lo sappia io, per tutti quei camionisti che sono fieri di esserlo, la giudizio che la camionista. Camionista era, visto? Allora è già visto questo baracchino del 1918. Quello è un baracchino davanti a Cristo. No, i nobilisti, per tutti quei camionisti che sono fieri di esserlo. Poi dice, ciao Sanna Valentino e Luigi Sanna. Dici. Oh, Gianmaria, ti interessa, comparezza, io. E dimmi che hai secchia. Dite come stai imburricando. Ancora chi ce l'ha? Più tardi magari. A Tore può essere interessi a me. A Tore che scende male ti dì. Ehi, chissà cos'è fendi tu alla vacca. Chi ce l'ha sei in giro o a vedere se la bastita. Tore! Oh, sono di una peggiora. Oppure andate alla cucciuccia a vedere la cucciuccia a cosa la idea. Napoli, sono più lontano ancora, ma non mi vengo una mola. Riprendi, grazie, avanti, Milo. Ehi, Tore, chi sa, se l'hai invitato, che cacca il lupo, Sì, Tore, imboscato, all'ombretto, se si cua come te la gioca, capito? Se si cua come te la gioca all'ombretto. E Marino, signor Marino, lo sentisse mai, grazie. L'ho sentito che era mezzogiorno, però l'ho dovuto lasciare perché stavo grattugiando il formaggio. E se coincideva ci sentivamo stasera, gli ho detto. Invece non l'ho sentito stasera. A mezzogiorno l'ho sentito però. E allora c'è gente, c'è impegni, mi sono già entrato, capito? Impegnato e Tore squallido, e a pescare poco è impegnato. Ehi, infatti ha detto, era mezzodì e mezzo, ha detto che era andato a Magnacchi, da vedo vi accompagna l'unibodi a giocare a pallone, alla torre, sì. E ha mangiato a mezzodì e mezzo. E beh, se no è stato senza mangiare, alla prima partita e poi a mangiare, no? Ha fatto bene, appena la banza prima di andare. E ma dunque la partita è andata a mezzodì a luna, ai due, è finita mille ore fa, non ti è impegnato in casa. Magari c'è gente a luna, la lasciano a mezzodì. Sì. Sì, proprio così. Allora, cosa c'era qua? Ecco. faccia fare chiamata a vedere. Luca, sì, sì. Luca, devo farci la doccia. Una fitta. E che dai, che bello, la vita si stava andando qua. E si doveva mettere in pigiama, chi ci ha detto? Ma il pigiama è pesante, è filato. Ancora non ho visto. E allora, è unito oggi in campagna? Sì, sono andato in campagna, ma fa nuda però, tutto fango, solo fa nuda. E di passi da fondi. Vabbè, caro Cristo. Ieri ho ti ha fatto un po' cudeva più. No, non è più orata, l'ha fatto. Tanto parlo per i capri. Ho aumentato tanto l'eba, non si preoccupa sempre dell'eba. Capito? E si fa un poco di sole, ma più, almeno una settimana di sole. Boh, non l'ho visto il meteo oggi, avevo già buco domani. Tu visto là? Ma non c'è vincolo, oggi proprio non l'ho già baitato. Se no io da come sto a baitare dalla montagna di sera quando viene preso. Poi stava cagando so che in casa che va a intendere, lo montavo lo vengo 3-4 tipi, e dopo li confronti uno con l'altro vede uno che diceva li dai. E anche io la mattina me ne guardo un 3 o 4, anche quello che danno verso le 11, molte volte me lo guardo. E non ho visto. Però non ne ho visto tempo. Oggi non l'ho visto neanche io. Ma l'ho già visto, un momento va, forse si ho visto come le videolina, però non mi ricordo come era la situazione. Perché il primo che vengo è a 25, cosa a 25. Poi da lì passo a videolina, da videolina passo a Rai 3, da Rai 3 passo a Rai 2. E anche io faccio lui a vedere cosa dici. No, oggi no, non l'ho visto proprio stamattina, forse quando ha detto è il momento che era in bagno, boh, e vabbè, saluti la vanno a far vedere. Tanto, no, mi metto delle mulieri che ti ho visto un po' di nuvole, un po' di sole, tra sole e nuvole, in mezzo per un sole, ammacciato, e sai che c'è come di oggi andava. Oggi già andata a vedere, no, già freddo c'è freddo, però c'era insomma una giornata discretina, va. Freddo gli aveva freddo, però il sole c'era bello. Stamattina c'era freddo, ma stava la Lecce, io sono qua di campagna, ero alle 8. Alle 8 oggi sono parlato del taglio. Mi ha fatto lo sogno, non lo sì. Solo che quando si può sapere la televisione, la poi di che, poi di che tasso, dopo poi torno se ne va fine. Ma tanto non dobbiamo fare nulla, dunque se sono capito di molti risultati, le cose ci sono, se ne va a testa. Non mai tenuta, vuol dire che è tutto a posto. E vabbè, oggi è la domenica, di me puoi ripetere a furbizzaggio, o ti crea la campagna. Ma tu devi pensare, io non posso pensare un letto, a che ora mi discendo e mi devo pensare, lascio vedere tutti i dolori. E io gioco con me stessi, anche a me mi fa così. Dei dolori, ti do la china, ti do il capo, ti do il gozzo, ti do l'anca, e beh, se te ne alzi quando ti svegli, tranquillo, beato. Ti vai a lavare, poi nel frattempo la vai a tenere il giornale, le previsioni del tempo, non c'è la media da una parte, c'è la media dall'altra, si passa nulla. Si passa nulla, arrivi alle 7:30, ma così ne abiti. Aspetta un attimino, Batti. Vai in ufficio, vai, grazie. No, stavo guardando una bottiglia per se l'ha chiuso bene il tappo. Ah, ecco. Ah, ti ho compreso. Stavo chiudendo. Io l'altro giorno sono andato a Bricome per le finestre, grazie a 220 mi pare maledetto, allora, 250, 220, ma mi sono messo 220. Ehi, ti sto dicendo, prenditele lì quando te le devi prendere. Perché a me, io questa di cucina e quella del bagno me l'ho fatta fare e me l'hanno fatta pagare una vacca di dinà. Quelle che mi ho fatto fare la briccone sono uguali, identiche, spiccicate, precise a queste che mi hanno fatto piazzare e mi hanno fatto loro. A me danno un biglietto della briccone, perché mi ha fatto aspettare anche quello per forzarle e piazzarle. Però sto pensando che chi si userà ordinata la briccone e poi me la vendo di a me, hai capito? Si può darsi anche, ma hai 30 giorni di tempo vogliono, 30 giorni lavorativi. Ehi, anche a me mi aveva detto così, poi mi era arrivato tramite niente, trasporti, e sono andato al capannone e me li ho ritirati. Mi hanno telefonato che erano arrivate le finestre, sono andato in macchina, le ho messe nel cofano col sedile abbassato e me le ho portate via. Sì, guarda, le ho pagate una fesseria io, quella del salone e quella in camera da letto. E sono uguali, identiche a queste che mi avevo fatto fare, spiccicate. C'è un mucchio di gente, vale, compra lì e poi lo rivende, è un po' niente, vado sul travaglio. Chi poi a piazzarle è una fesseria, è una fesseria, qua 4 vizi devi mettere. A piazzarle c'è una tronzata, tu la posizione che affido di telaio, vecchio che c'è, il telaio lo devi lasciare, delle finestre, il legno che ci sono. Ci metti le quattro, la cuglio, la mantenica, che tu fai, non c'è bisogno manco di trappano, pigli la vite, buchi la plastica e prendi il legno subito. Se ci vuole uno spessore glielo metti tra il telaio e quella finestra e sei a posto. Poi ti compri una bomboletta stessa alla briccola di schiuma, tu sei in giro, gli metti la schiuma. Quando è asciutta la tagli, i coprifili ce li devi comprare. Chiaro, i coprifili bisogna comprarli. Ma quando ne compri i due, i coprifili ha fatto anche troppo per ogni finestra, perché ce ne vuole 1,50 da una parte e 1,50 all'altra. Sopra non ce ne vuole. E allora voglia, io li ho presi spesso lì alla briccola, eh? Infatti me ne era rimasto un pezzettino a me, di quel coprifilo. E l'ho usato, non mi ricordo a cosa. E niente, li ho piazzati e sono un bombo. Non senti manco uno spiffero, nulla. È chiaro, non senti, no. E ma adesso, siccome io sono lavorabile, dove passa lavorabile, no? Devo metterci la cosa, una piattina di alluminio. Devo staccare la guida. Infilarci l'alluminio a coprire il legno, capito? Per coprire il legno. No, la vulgibile mica la devi toccare la guida della vulgibile. La guida non la... perché dove ce l'hai attaccata la guida? Non è attaccata al telaio di legno della finestra, il legno che c'hai adesso. Ed è incassata nel muro, non la guida. No, sono sorgenti, come dicevo io, sono basculanti. Ah, basculanti ce li hai. E beh, cosa... non li basi nulla, cosa li basi? Perché questi qui ti rubano un pezzo, ma non li basi nulla. Rimane sempre allo stesso punto dove sono adesso le guide della volgibile. Quelle non le devi smontare. Sì, bisogna vedere un po', metterci... La piattina dell'alluminio per coprire quelle sono 3 cm dove la guida, 3 o 4 cm, se no quel pezzo lì rimane a legno, rimane a legno e buonanotte. No, allora lì lo sai cosa fai, compri un tubetto di silicone uguale alle finestre, sempre alla briccome, come ho fatto io, tra il cassonetto e la finestra, gli ho messo il silicone, ci ho passato il dito e non si vede nulla. Quello sì, quello bisogna siliconare. Non si vede nulla, no. Capito? E bisogna anche la fascia. Adesso è tempo buono, quando dici che ti piace di vedere un freddo, che si può lavorare tranquillo sulla finestra, lo facciamo. Me le faccio fare, anzi bisogna le ordine da adesso, così quando arrivi è per tempo buono. Beh, io ho fatto le ordinate e poi quando sono arrivate era tempo buono, capito? Io gli ho messo anche il silicone e poi gli ho passato il dito ed è uguale alla finestra, non si nota niente. Perché è bianco, io devo fare bianco, non le posso rughe né gialle né niente, no. Il bianco, il più poco che costa è il bianco. Il color legno sono 50 euro di differenza. Lo so, è bene, compri il silicone bianco con l'antibuffa e gli metti quello, ti assomiglia lo stesso. Oh, bianco, e molta gente se li hanno presi bianchi perché costano di meno, ma a me bianco non mi piace, è meglio presi color noce. Il color noce costa 50 euro in più. Ho detto quello lì, dice, poi vediamo un po' cosa si può fare. Se mi porti le misure esatte e poi gli faccio il conto esatto. Non ho detto, io gli ho detto misure così, gli ho detto è 80, 85 per 1,50, l'ha fatto un conto, cioè vedendo dice intorno ai 2,20, 2,50, una cosa del genere. Ehi, costano pochissimo, una cazzata qua, che arrivano da pure arrivano. Tu devi prendere la misura del telaio della finestra, dei rubacoli, dei bucati, le ante solo, poi ne stacchi le annube e tagli la traversa che c'è sopra il marmo, quella la tagli a dritta e nitti, poi il dentino del marmo con lo scalpellino ne lo vai a brincare, pulisci e lo stucchi perché c'è in qualche pezzo ne salta dove c'è la scanelatura di quel dentino. Lo stucchi e lo dà la città, pronta a piazza. E devi prendere la misura dal marmo a sotto il telaio della finestra, il legno che c'è, capito? E la larghezza lo stesso. Sì, è fatto quello, ricordo, se non mi sono non ci vuole sia un 51, una cosa del genere, un 50. Allora bisogna prendere le misure giuste e portarle, cioè, queste sono le la luce, poi lui deve calcolare lo spazio per infilarsela, almeno mezzo centimetro di luce mi deve lasciare. Tu dagli la misura giusta, guarda che la mia c'era un minimo di spazio, sia larghezza che di altezza, ma pochissimo, io gli ho fatta precisa la misura, la larghezza e l'altezza. E come già detto me li hanno mandati, perché là al capannone le ho misurate quando sono arrivato, c'avevo il foglietto delle misure quando l'ho ordinate ed era preciso. Quando l'ho portate che le ho messe giuste giuste. Infatti, se le misure sono giuste funzionano, no, perché, ripeto, hanno già un po' di anni queste finestre. Non dico molto, sono una quarantina d'anni bisogna avere, dunque è già da cambiare. E poi era legno coso abete, però era fatto da un falegname che pignolo al 100%, più da meno macone si attende la legna e un sole più di un mese, ogni giorno in estate la metteva l'altro giorno al sole, poi se ne entrava al montano doveva cavare, poi le appiallate, le addrizzate. Ha detto, signor Giovanni, ma quanto taglia la storia? Lascia asciugare, se no fanno vizio, infatti, tu le vedi, sono perfettissime. Guarda che le mie erano nuove, nuove, io la manutenzione ogni poco tempo gliela facevo, mi la sverniciavo, la libigavo, le tornavo a tigre, erano nuove, nuove. Infatti non le ho buttate, no, le ho date a mio nipote, saranno fatte di giù e si sta buttù. Chi ci l'ha aiutato io, perché le misure sono standard, abita qua a fianco nell'altro portone, ci ha buttato le sue vecchie, ci ha messo le mie, quelle nuove, Sono perfetto. E dai nuovi nuovi. Quando sono nuovi è un peccato a partire. Se andavano bene, ho fatto l'affare. Capito? Quanto per le mie, se sono nuove, ma se sono anche un po' di anni. Quelle che prendevo più sole sono più aperte, sono messe male. No, io le tenevo conto bene. Se c'era aperta un pochino, la succavo con lo succo e la colla, lo facevo uguale al colore del legno, lo succo. Ben fatta, ma così vi dia. E poi me le verniciate, me le mettevo sui cavalletti nel pianerotto. E ogni poco tempo le facevo a nuovo, ma a nuovo non avevi bisogno, ma io c'avevo la fissa, capito? E nuovi nuovi, non le farò due vedi. Ha fatto un affare, ha fatto. Non sono nuovi si può idratare. E se non sono vecchi bisogna fare un buco. Anche le maniglie erano nuove nuove, quelle lì erano in bronzo, belle, tutte ricamate. E le avevo messe da poco anche quelle. E le ho regalate. E cosa me ne faccio? Ma la pastiglia l'hanno facciato. Ho detto, ci butti le tue e ti metti questo. E ma non vanno bene, va che sono precisa, le vacone che vai giù, va. Sono misure stampa. Infatti, sono tutte uguali queste aperture di qua. Sono tutte la misura, le ordinate tutto allo stesso posto, sono allora. Capito? Le fate tutto una fabbrica. E dunque se quelle 40 aveva ballattino, le 40 che è la seconda che in serie. E allora, perché a Sant'Orsola, dove hanno costruito tutte le case popolari? Chi si baccone la giubbati in falegnameria? E bacconi, caccionetti, guavugibili, tutta roba fatta da me contro telai, perché quando lo stavano costruendo lì a Sant'Orsola, li facevo e consegnavo, capi? E le misure erano tutte standard, come quelle di qui, anche quelle là sono uguali. Anche a Sant'Orsola, perché Sant'Orsola c'è qualche due finestra, e ne so poco tanto di cose, di appartamenti, un mare di appartamenti, capito? E quel terreno era il mio, dove c'era la casa popolare. Quelle finestre le ho fatte tutte io, invece quel palazzo che c'è dall'altra parte, quello alto, alto, grande, lì ho fatto tutte le porte tamburellate e le ho fatte, portate e piazzate in quel palazzo lì, però quello lì non è popolare, quel palazzo non è grande. Però quelle popolari che ci sono a Sant'Orsola, tutte fatte da noi in falegnameria, fatte, consegnate e piazzate. Quelle di via Cesaraccio, quelle lì sono tutte case popolari. E poi c'era una traversa di via Cesaraccio dietro le case che ha fatto Marruso, lo stesso sono case popolari. Ehi, ci avevamo la parte noi a fare il monoblocchi per i cazzoletti, i controtelai, per piazzare le porte, tutto noi, le finestre, controtelai, mi ha giubato un mazzo la voce, ma fa, facendo e consegnando, facevo anche due viaggi al giorno, uno la mattina e uno la sera. Ma fare controtelai è veloce, una volta che tagli le tavole, a mettere dei quattro chiudi, una traversa è la cosa extra. C'avevo il telaio, lo metteva la misura che dovevo fare, allora quando ne va via la di una marea di tutte le misure, da 80, da 90, da 70. Bastava spostarvi il legno e facevi una misura, lo spostavi di là e facevi un'altra, c'avevo la di, ma no. E poi le tavole, quando c'era poco lavoro, me ne preparavo io, già pronte, capito? E poi rimanevano solo da assemblare. Facevo i fianchi e le traverse, da 70, 80, 90 e da un metro. C'era tutto pronto. E così si fa bene in fretta, non si perde tempo. voglio fare cosa trai. 4 giorni, diciamo, due compatti per diciamo. Con la pistola col compressore, c'avevo la pistola con i chiudi da 4. Si punia 3 ciodi di missi, sono a forchetta. E ogni si muove, lì si lungo, poi le traversine rimaneva qua che erano un bombon, belli bloccati, belli solidi. E quelli di chiudi a forchetta, io si mantenia le marasucche, erano bestiali, ne non giocava. Però quando devi cavare la traversa, molto era. Però a voglia che resistevano, ma lo sai quanti ne ho qua? Sì. Un bel, ne ho consegnato in tutta la Sardegna. Tutta la Sardegna. Sono buon. Forse non ne fanno più. Adesso è cambiato il sistema. Allora la cosa quando te l'hai in legno, non l'ho visto più. Ci sono quelli in alluminio adesso. E vedo, però io la falegnameria l'ha chiusa e tutti quelli che li ordinavano si sono rivolti ad altri posti, anche in continente, se li fanno arrivare anche da continente. E noi li basiamo, non abbiamo i travagli, solo che è stufato e dobbiamo comprare tutti i macchinari a norma di legge, di nanno ne vuole quindi allora preferisco usarla. L'operai a caso. Ma da pure forse che finire a finire da pure, che da pure venivano imballati, c'era Gianna Bagianna, con i gaffi e tutto, pronti a inchiovare. Infatti quelli che vende adesso, lui, se li fa arrivare da pure già imballati, imburicati con un nylon, tutte le misure, pronti a consegnare, all'interno ci sono le gaffe e tutto. Telefono a sé. E beh, basti. Sì, grazie, qua sono. Adesso lui ce l'ha il negozio. Prima di andarmene, ne ho fatto un bene, me ne ha fatto fare un molti prima di chiudere, no? E se gli aveva, gli ho lasciato falegnameria pronti. Però quando li finiva, gli finiva, se li faceva arrivare da fuori, capito? Sì, però ci risparmiava di più, e ci guadagnava molto di più, perché costava una cavolata quello da fuori. E il capannone che fine ha fatto? Cosa c'è adesso lì? Nulla? Nulla, è in vendita, 1,5 miliardi. Sono 2 capannoni, non è uno. Più c'è tutto il terreno e poi ci sono appartamenti che avevo fatto io lì stesso, anche l'ufficio l'ho fatto appartamento, poi ho fatto un altro appartamento staccato dalla falegnameria, 2 di esso, dietro, e poi l'avevo tutto restaurato anche il capannone, esternamente e internamente. Capito. Ma la villa l'aveva venduta la prima, l'aveva venduta. Ci è rimasto il terreno della cosa, del capannone e il capannone solo. Sì, no, la villa è di signor Mario, di quello del rifornitore, che c'ha il maneggio dei cavalli proprio dove c'è la falegnameria, c'è anche il maneggio dei cavalli qui. Quella villa lì se l'ha venduta a signor Mario, quello del rifornitore, della Budim. Sì, io lo conosco, signor Mario, lo so che ce l'ha lì. E adesso la signor Mario che viene a comprarsi anche il capannone e il terreno, lui c'ha tutto lui lì. No, non l'ha voluto dare perché non ha voluto comprare perché ne voleva 1,5 miliardi. Oh, se no signor Mario voleva il capannone di dietro dove c'era la lucidatura e il magazzino dove mettevo gli ordini pronti. E dice, non dice, non ve l'ha voluto, quindi L'ha detto, se lo vuole tutto, se no niente. Io se non mi ha detto, te ne tiro, e lo prendo a maggio mai, questo. E che per un'altra miliardo e mezzo, devo avere un'attività un po' grossa per avere quella spesa. Erano venuti da fuori a vederlo e tutto, hanno contrattato, lo dovevano prendere perché dovevano fare un ristorante, discoteca, grandissimo parcheggio, perché era vicino al mare, però non gliel'ha dato perché dice che era negli enti Lompia e allora non era venduto. Il suburo è. E a vedere che sul capannone vanno a finire in mano ai cinesi. I cinesi se lo comprano quello lì e mettono subito un negozio, un super negozio. Magari come negozio no, magari come deposito va bene, perché è fuori mano, che vanno a comprare. Come deposito all'ingrosso anche, per dire, capito? Vai giù da pannone che sono mani che hanno rimbiuti, sono enormi. Vari macchinari li aveva venduti in Cina, certi macchinari della falegna mia, li ho caricati io sul rimorchio, li ha venduti in Cina, però ce n'erano rimaste le macchine. Le macchine aveva tante, erano tutti i tipi venivano, macchine ce n'erano. E devi pensare quando c'era Francesco, ma sai quanti biti so ammazzato e chiedete sul capannone, non avevo idea tu. Già lo so, ma sai quanti burro venire a papo, 2 anni, una marea. Ma è un peccato. A me me la voleva dare in gestione, la gita vieci da Marco. La gita va che mi deve andare a mi dai la falegna mia in gestione, no, lasci perdere. Tranquillo senza problemi. Dici già ti faccio lavoro io quando no, lasci perdere, mi voglio capisano, ma cammina tutta. No, non mi interessa. Ma è una magnata lo salvezzo. A prenderla. Sia marito che la moglie. E dove è allora? A chi macco giù? E ora devo muri travaglietti. No. Travagliare il baetto. E tu a bocca asciutta. Adesso si può chiamare la pila. Capito? Ma che magari lo vedono tanto e del pagare 2 euro. Beh, è logico, io a lui lo dovevo sempre pagare, no? L'affitto è più un tosto a tutti i lavori che mi procurava lui, capito? Non se l'abbiamo fatti male i conti, ma sicuramente non ero macco. Hai imparato a conoscerli, no? Hai imparato a conoscerli. Prima era povero, se non mette andare a povero, è tuo puro. Gli assinamenti, ma... devo una niente a strozzarla, la gente no, guardi, non mi interessa, anzi, non per quello andare a mille, non c'è malato. Mi dispiace per quell'altro che c'era, perché l'ha licenziato. Infatti, devi pensare, quando era povero, veniva in negozio a comprare le cambie per le cucine, roba varia, le vestine per le lampade, allora aveva il mondo, le lampade a gas. E arriva in negozio a comprare con lo sconto e la pagava lì, la vendi al vento. E allora è tutto rego, sì, non ti preoccupare, non ha mai giambato, sempre venendo in miseria ed è frate così di no. 3 anni fa mi ho giambato una voce per di facciata, mi sono andato a farmi fare. Si voleva l'operaio, no? E se no devo parlare con il titolare. La gamma mi dice, tu cosa fai? Ho detto così. Fatti rifare la tifosa del conto. Più caro della Cilu che me la fate pagare. E perché non lo sai lui? Perché tu te la dovevi prendere. Te la ordinavi a passata. Telefonavi, davi le misure e te la facevi mandare a Sassari. E la pagavi un bel di più poco, Ma c'è anche quello di via Porcellana che ha lavorato, solo adesso lo conosce a Ghita, mi fa del conto. Oh, più caro della Cirucchi. Passa il sito alla Muglieri, non so cos'è, la Muglieri, sta signora. Ha detto, è più caro degli altri posti, ma dice questo è il materiale di primo. Ha detto, sarà di primo, sarà di secondo, è sempre il materiale più caro. Guarda che le avvolgibili ce ne sono di tre tipi, c'è il tipo medio, il tipo leggero e un altro tipo rinforzato. Il più buono è il tipo rinforzato. Il tipo leggero non si va a usa e tutti vanno a controfinestra e poi i ghissi. In un anno diventano i rotondi ghissi secchi, lo servono. Poi c'è il tipo medio che è così così, però non c'è i rinforzi, le lamelle all'interno della secca. Quelle durano un po' di anni di più, però ti si fa di mitondi romattezzi. Solo quel tipo pesante sono rinforzate e sono buone. Sì, anche con rinforzo. E ha subito per il lavoro le efficienti. E allora gli devi mettere più rinforzi. E rinforzi li vendono. O se no te li vai giù. Pigli una trafila di tondino di chissà più minori e ogni secca. Sì, basta trafila da 6, perché in campagna per riportare la possibile ci ho filato trafila da 6 e ogni secca c'è ci posso trafila, pesa un trono a stalla. Ehi, se li fai più i rinforzi, tanto li lavoghi, fa pulilla, fa la valla, ti tagli i rinforzi e ce li infili, assai. Oh, non vivo poco a farli, eh. Ci vuole poco, vivo più a cavalli la possibile che a punire i secchi. Perché io ogni 2-3 se ne prendiamo una traversa e via. Non sono troppo pesanti, allora ve ne una ogni mezz'ora. No, io qua me le ho cambiate tutte quante, quando stavo lavorando. E però non le ho comprate. Sono avvolgibili di recupero. Gente che se li hanno messe in alluminio per dire antisfondamento, in acciaio, quelle erano buone, io mi si era buttati in un cacaraggio in campagna. E a se fumano ogni tanto mi giambavo una. E io sì andavo, e così va bene. E magari anche quelle buone. Anche la plastica che facevano i primi era migliore di che si faceva. Ma non si sa come dire la plastica. Infatti quelle che ho io sono di tanti anni fa, è bella grossa la plastica. Io mano a mano che le recuperavo, me le portavo qui in garage o in campagna, capi? Poi ogni tanto quando vado in tempo in campagna me ne smessavo, le più buone me le diniglia. E che se non si viene ridati all'amico, non si capi. Però non è che non si dicono, che erano buone lo stesso. E me le ho fatte tutte così, però non c'è che tu brucia. Questa di cucina, la porta a finestra, più di 300 euro viene a costare. Sì, che lei è grande, viene una del porta a finestra, perché è interrato. E dunque io non ho cambiato perché non la usiamo mai, rimane sempre a rotola da sopra dentro un cassettone, non la usiamo mai, non la facciamo mai scendere. Ed è rimusa, c'era pure degraziata da grande tempo. Ehi no, se è rimusa dritta un cassonetto già è buona, non ti preoccupi. E tu quella la usi in caso ti si faccia gacca di una nei fili. Una, due secche, quelle che ti servono, apri il cassonetto nel filo, le secche che ti servono, se è più grande la taglia a misura di quelle che ti si sono rotte nella finestra per dire, e così non ne comparecchi, e mi rigiambi giù, sono aggazzato a ciamballo. No, questo ero già, c'è un posto, capito, non è già, ma giusto, c'è un paticello di ogni agosto, capito. Sì, bisogna imparare a fare tutto Graziano. Ah, io vado sempre basso giusto io, non ho mai chiamato a nessuno. A meno che per la caldaia, logicamente per quello ho dovuto chiamare, perché ci vuole il tempo, così deve rilasciare il certificato e tutto, capito? Però di tutto il resto che ho fatto qua, tutto fatto da me, senza chiamare nessuno. Io vieni a te, fai tutto, piano piano. Se non la fai in un giorno, la fai in due giorni, non ti frega nessuno. Piano piano. Così io ho fatto queste cose, sempre impegni. Piano piano te prendendi. Capito? Adesso questa è la primavera che abbiamo la possibilità. Nelle finestre, la possibilità di umana, che sono noi la possibilità. Le due finestre di facciata cambiamo. E via, piano piano poi faccio le altre. Una per volta. E allora, piano piano, ti va a aiutare, piazzarla, bambantilla, va. È un gioco, cosa? Perché poi oggi ti fate ripagare una vacca di dinà, di mano d'opera, non hai compreso. Infatti mi ha detto, visto, mi ha detto, se l'operaio ce l'ha per piazzarla, e tu sì. C'è un amico falegname che le piazza lui, allora va bene. C'è poco, già so, poco lompi, oi oi. Oggi no, non puoi chiamare nessuno a chi ti gracca, né? Proprio per carità. No, io ho imparato tutto, no? Qualsiasi cosa che sono andato a fare, sotto principale o con amici, e aiutarla qua, ho sempre guardato e mi sono imparato da solo. A chi nessuno ti impara, sino a mai di deve mai da sempre. Infatti non ti impara nessuno, non lo sa, sennò devo il travaglio. Tu ne pensavi, ma mi sembra il motorino elettrico di Atalanta, in garage. Quando l'ha piazzato un centimetro importato, e la secca tocca il coso, e la bandiera della possibile, della Serranda. E poi no, dice, siamo a Fraeraggio, dove va? Ha chiamato Fraeraggio, che si è preso lì la garage. E giunto, io mi sono apparito, dice, hai tu forza che sono in vero, poi mi diceva, siamo... Ha preparato la cara, tutto, è giunto il manzano, dice di devo tagliare la secca, adesso la secca devo tagliare un pezzo. Tagliati un pezzo, ha tagliato un pezzo, un triangolo ho tagliato, ho lasciato 4 secondi, ma pure la cara ha pigiato, l'ho spigiata io la cara che era la mia. Ha detto cosa gli devo dare, maestro, è lo che mi desidero. Ehi, è così, sono beccari, ma tutti canti. No, non puoi chiamare più a nessuno, per ogni minima fesseria, colpi di 50, di 80, 120, ma ve la va. No, non si può. Mi, ieri, andate ieri, mi ho preso il motorino dell'aspiratore di cucina, va, a un 20 di, mi bago la cara e me lo piace, mi ruggia a buio, a chi l'altro si è bruciato. Si brucia dal numero, vuoi entrare dove ne sai. No, oggi sono cali, tu devi pensare. L'anno passato in campagna me l'avevi bassa, in vallata, non avevo di a seguirla. Ha chiamato uno, un amico, era disoccupato. Ma ci sto bene a fare una curata, Emmo. Vabbè. È giunto, ho cercato 4 ore, 5 ore, non ho stato, non ho più visto, ho stato. La sera, cosa ci hai dato là? E dammi 80 euro. Vabbè, 80 euro. Cioè, se sei un bricchetto, 80 euro dai per la pescata. E cosa vuoi fare? No, ma di 80 sono stata giocata, cosa vuoi dire? No, no, te lo tiro dopo. E non ti lo brisce, chissio. Oh, no. Ah, io in campagna già me la c'è sempre tagliata io. Ah, ma io non ne posso più. E già per me nipote che ce la taglia io, gli ha fatto giusto questo. Ma ti ho fatto questo truffo io. Ah, va, si arrangiano in tutti, che a me non me ne fa. Sì, ma io ancora ci va, sempre va. solo che le superiori non si può fare niente. E poi sono cali, non poi siamo a nessuno, sono cali, non li travagliano, non li travagliano. Se abbiano al giro giro, giro giro, giro giro, si passa l'ora e tu paga. E allora, no, io, sempre io me l'ho fatto nel conto. No, mai chiamato a nessuno. Sì, se mi serviva una mano a portare un peso, così, sì, ha chiamato. Però solo aggiungarmi a trasportarlo, batti, e buh, e niente. Del resto, mi ha fatto sempre tutto io. Tutto, a chi devo chiamare l'altro non ha nessun primo. E vabbè, piano piano sempre che se cosa l'Italia me la posso rimanere. E in casa si può fare, in casa si può fare. No, il ricorso va per andare in figliola in Sassari. Mi fa la vaeva. Ha giunto uno di un'impresa a venire a casa e prende la facciata. Ha detto così così, e andiamo a vederlo. L'ha deputato. L'ha visto, ho detto, no, bisogna anche trovare qua, fai freddo, fai ciò che ti fa. Hai detto, tu cosa mi dici? Dici, può fare ciò questo, vuole 350 euro. Vabbè, 350 euro te le do, dice, ti do la garanzia di 10 anni. L'anno passato l'ha fatto, a casa la prendeva, c'ha come 2 chili o 3 per il pesciente, no, dove prendeva, è umido, si può fare, ha detto, voglio sapere quando lo fai. E mi ha tragiato io. E dunque tu devi andare a fare un lavoro. Io mi sono sacciato che è pericoloso che l'ha fatto, è feo. E al quinto piano deve sacciare un parabrezza da un metro. E il buongiorno è finito pure, deve lavorare all'alto. Pericoloso. Oh, tu, l'UBC, quando vedi che è mezzo tempo, non vai a te, non vai a chi ti lascia l'affiliato. Io sono fatto, se no è la Santa Reggio, io ho detto. Tanto la c'è più rubare la Santa Reggio. Ehi, va bene ammazzarlo là, che sono le 8 meno 10. Ciao, ce la sentiamo, a domani se coincide, Bacchi. Ciao a chi è in ascolto, sono tutti pariti. A domani. Ehi, ehi, grazie, hai ragione, anche per me è arrivata l'ora. Grazie della chiacchierata, grazie a... A domani se coincide, saluta Paoletta e stammi bene. Buonanotte, ciao. Ciao. Ciao Bacchi, ciao anche a Graziano. Sto facendo cose, non potevo rispondere, vi stavo ascoltando. Ci avevo fatto un discorso per cui vi ho lasciato chiacchierare, vai. Ciao, ci sentiamo domani, Bacchi. Ciao, saluto di casa anche a Graziano. Ciao Giovanni, a domani se coincide, ciao. E io, ciao Gian Maria, buona serata, sono in casa, ricambiato al centro. A domani se tu coincide ci sentiamo a chiacchierare. Ciao, ciao, buonanotte. Ok, ciao.